Questi sono gli abitanti della provincia che tornarono dalla prigionia dell'esilio, coloro che essi tornarono a Gerusalemme e in Giuda, ciascuno alla sua città. Vennero con Zorobabele, Giosuè, Neemia, Seraia, Reelaia, Mardocheo, Bilsan, Mispar, Bigai, Recum, Bana. Numero degli uomini del popolo di Israele. Figli di Paros, 2172. Figli di Sefatia, 372. Figli di Arak, 775. Figli di Pacat Moab, cioè i figli di Giosuè e di Joab, 2810. Figli di Elam, 1254. Figli di Zattu, 945. Figli di Zaccai, 760. Figli di Bani, 642. Figli di Bebai, 623. Figli di Azgad, 1222. Figli di Adonicam, 676. Figli di Bigvai, 2056. Figli di Adin, 454. Figli di Ater, cioè di Ezechia, 98. Figli di Bezai, 323. Figli di Iora, 112. Figli di Casum, 223. Figli di Gibbar, 95. Figli di Betlemme, 123. Uomini di Netofa, 56. Uomini di Anatot, 128. Figli di Asmavet, 42. Figli di Kiriat Jearim, di Kefira e di Beerot, 743. Figli di Rama e di Geba, 621. Uomini di Micmas, 122. Uomini di Betel e di Ai, 223. Figli di Nebo, 52. Figli di Magbis, 156. Figli di un altro Elam, 1254. Figli di Karim, 320. Figli di Lod, Cadid e Ono, 725. Figli di Gerico, 345. Figli di Senaa, 3630. I sacerdoti, figli di Jedaia della casa di Giosuè, 973. Figli di Immer, 1052. Figli di Pascur, 1247. Figli di Karim, 1017. I Leviti, figli di Giosuè e di Cadmiel, di Binnui e di Odavia, 74. I cantori, figli di Asaf, 128. I portieri, figli di Sallum, figli di Ater, figli di Talmont, figli di Akkub, figli di Catita, figli di Sobai, in tutto 139. Gli oblati, figli di Zica, figli di Casufa, figli di Tabbaot, figli di Keros, figli di Siaa, figli di Padon, figli di Lebana, figli di Cagaba, figli di Akkub, figli di Cagab, figli di Samlai, figli di Canaan, figli di Giddel, figli di Gacar, figli di Reaia, figli di Rezin, figli di Nekoda, figli di Gazzam, figli di Uzza, figli di Paseac, figli di Besai, figli di Asna, figli di Meunim, figli dei Nefisim, figli di Bakbuk, figli di Kakufa, figli di Karkur, figli di Bazlut, figli di Mechida, figli di Karsa, figli di Barcos, figli di Sisara, figli di Temac, figli di Nesiac, figli di Catifa. Figli dei servi di Salomone, figli di Sotai, figli di Assoferet, figli di Peruda, figli di Jaala, figli di Darkon, figli di Giddel, figli di Sefatia, figli di Cattil, figli di Pokeret Azebaim, figli di Ami. Totale degli oblati e dei figli dei servi di Salomone, 392. I seguenti rimpatriati da Tel Melach, Tel Karsa, Cherub Addan, Immer, non potevano dimostrare se il loro casato e la loro discendenza fossero di Israele: figli di Delaia, figli di Tobia, figli di Necoda, 642. Tra i sacerdoti, i seguenti: figli di Cobaia, figli di Accoz, figli di Barzillai, il quale aveva preso in moglie una delle figlie di Barzillai, il Galaadita, e aveva assunto il suo nome, cercarono il loro registro genealogico, ma non lo trovarono. Allora furono esclusi dal sacerdozio. Il governatore ordinò loro che non mangiassero le cose santissime finché non si presentasse un sacerdote con Urim e Tummim. Tutta la comunità così radunata era di 42.360 persone. Inoltre vi erano i loro schiavi e le loro schiave, questi erano 7.337. Poi vi erano i cantori e le cantanti, 200. I loro cavalli, 736. I loro muli, 245. I loro cammelli, 435. I loro asini, 6.720. Alcuni capi famiglia, al loro arrivo al Tempio che è in Gerusalemme, fecero offerte volontarie per il Tempio, perché fosse ripristinato nel suo stato. Secondo le loro forze, diedero al tesoro della fabbrica oro, dramme 61.000, argento, mine 5.000, tuniche da sacerdoti 100. Poi i sacerdoti, i leviti, alcuni del popolo, i cantori, i portieri e gli oblati si stabilirono nelle rispettive città, e tutti gli israeliti nelle loro città.